niente. Io penso che non sia così, che nessuno è ricco da solo. Una senatrice americana schierata del Partito Democratico poche settimane fa, nella discussione che c'è stata nel Senato degli Stati Uniti sulla questione delle tassazioni, del fiscal cliff e tutto il resto, ha fatto un'affermazione che appunto, quindi anche negli Stati Uniti c'è questo, quindi non è che negli Stati Uniti sono tutti la pensano allo stesso modo, stanno tutti coi ricchi, ha dichiarato una senatrice americana democratica che nessun ricco diventa ricco da solo, cioè ogni ricco per diventare ricco utilizza strutture comuni, strutture pubbliche, beni comuni che sono stati costruiti dalle generazioni precedenti, che magari sono stati costruiti socialmente, collettivamente dalle generazioni precedenti. Nessuno diventa ricco da solo. Quindi, detto questo, io penso che io non sto dicendo che bisogna abolire ogni differenza sociale, sono giusto che ci sia, penso giusto che sia giusto che chi fa delle cose importanti, chi ha l'intelligenza per costruire dei beni, delle novità, è giusto che abbia un premio, però qui stiamo crescendo a dei c'è un'esagerazione, un modello di vita in cui il premio spesso viene prima del risultato.